il decreto sicurezza ci preoccupa, ecco, perché siamo a questo punto, ancora non abbiamo gli effetti dispiegati pienamente, abbiamo alcune situazioni che già, come dire, subiscono un po' queste conseguenze del decreto e siamo molto preoccupati. Siamo preoccupati perché, come poi già rilevato anche dai giornali, è questo cambiamento per l'iscrizione all'anagrafe e che è diventato per i richiedenti asilo praticamente impossibile. E allora il problema è che, non essendo iscritti all'anagrafe, questi non hanno diritto all'assistenza ordinaria, per esempio se stiamo sulla salute, così come ad altri interventi relativi alla formazione oppure all'istruzione e così là. Noi ci interessiamo di salute, di sanità, siamo dei medici del gruppo di psicoterapia medica, insomma della Società Italiana di Psicoterapia Medica, e quindi ci occupiamo della salute mentale, fondamentalmente delle persone adulti e minori. E siamo preoccupati perché, in particolare per gli adulti, l'iscrizione all'anagrafe è di fatto saltata per i richiedenti asilo, mentre per i minorenni, per gli adolescenti, i minori stranieri non accompagnati che sono qui da noi, siamo estremamente preoccupati perché, essendo caduta soltanto la possibilità al compimento del loro 18° anno di continuare a proteggerli per ragioni umanitarie, come era possibile prima del decreto, quindi consentendo a loro un paio d'anni, 2 o 3 anni nei quali potevano completare la formazione, trovare un lavoro e procedere nel processo di integrazione, adesso noi ci troviamo nella condizione che questi, arrivati a 18 anni, o sono in condizione di avere un lavoro, di pagarsi l'affitto, oppure non hanno diritto a nulla e quindi rischiano tanto di cadere nella clandestinità, e comunque noi li perdiamo come soggetti da seguire, da curare. Ne abbiamo seguiti e curati molti. Tenga conto che, come è noto, insomma, la condizione di migrante, nelle condizioni poi in cui avviene, vediamo le tragedie che succedono, è una condizione estremamente traumatica, in particolare adesso dove sappiamo bene cosa succede in Libia, e quindi questi ne escono fortemente provati, adulti o minori che siano, ma a maggior ragione i ragazzini e gli adolescenti. Io ho raccolto, ma non sono il solo, racconti terribili, ecco, di quelle cose a cui non solo subiscono, ma sono costretti ad assistere. Questo ti prova per tutta la vita, quindi hai bisogno di un supporto, di un aiuto di base, ma anche specialistico, quindi di una buona accoglienza e di buoni servizi. Noi li abbiamo, ma non possiamo più metterli in pratica, questo ci preoccupa molto. E un altro elemento che voi sottolineavate era proprio quello delle possibili conseguenze del decreto sicurezza, quindi non solo in termini di accesso ai servizi psicologici, ma proprio sulle condizioni psicologiche poi dei migranti. Sì, noi temiamo molto che la condizione di esasperazione della marginalizzazione e dell'esclusione, di fatto, perché tu ti trovi nella condizione di cittadino di serie B, c'è poco da dire, non hai diritto all'iscrizione. Lei tenga conto che il testo dell'immigrazione prevedeva che il richiedente asilo, in quanto tale, quindi con una certificazione di richiedente asilo, quella certificazione valeva come documento di identità e come, essendo un documento di identità, anche di iscrizione all'anagrafe. Adesso rimane un documento di identità, ma appunto, come dicevo, l'anagrafe non ti ci puoi più iscrivere e diventi un cittadino in serie B, non c'è dubbio. Ora, questo sentimento, e credo che per ciascuno di noi, se si trovasse in queste condizioni, questa è una condizione di inferiorità, di minorità, che non fa che esasperare una condizione di o sottomissione o di ribellione, comunque di disagio e di malessere, che se già sei una persona provata e più fragile, ecco, più vulnerabile, non fa che aggravare questa condizione. Diciamo, mi sembra tragicamente molto chiaro. E partendo appunto da queste constatazioni di cui abbiamo parlato finora, voi avete rivolto anche un appello alle istituzioni, sia nella figura del governo ma anche in quella dei comuni. Penso per esempio ad alcune sentenze, alcuni provvedimenti presi da alcuni comuni italiani che vanno proprio nella direzione di permettere comunque, nonostante il decreto di sicurezza, l'iscrizione all'anagrafe. Quello che noi faremo è quello di inviare il nostro documento che contiene appunto queste nostre preoccupazioni alla giunta comunale, per esempio qui a Bologna, alla giunta regionale senz'altro, a delle società al garante dei diritti dei cittadini, alcune società scientifiche che sono vicine alla nostra per area, intendo dire quella di pediatria, quella dei medici di medicina generale, quella di psichiatria, ecco, proprio per far presente anche anche in ambito scientifico, perché è una posizione molto professionale, non c'è nulla che vada oltre questa preoccupazione di fare il nostro dovere legato alla nostra professione. Poi che questa nostra preoccupazione venga accolta da coloro che per compito hanno poi di regolare la vita di tutti noi, quindi le istituzioni.